sono le 8 spaccate di un venerdì 4 gennaio 2008, l'anno della svolta. Qui c'è l'Ariele, Spadino, Roberto Fricantoni, la redazione no, perché è in vacanza, ma pare pure rock and roll c'è. Let the sunshine. Abbiamo chiuso un'oretta di diretta bella, bella frizzantina come piace a noi, e ne iniziamo una seconda, pronti come dei cannoni a arrivare fino alle 9. Come dei cannoni, ho detto, non con i cannoni. Vi conosco, mascherine. Che il sole splenda da Eric, da Luca, che non ha dormito, ha passato la notte dalla ragazza più rock che conosca, dopo aver visto per l'ennesima volta Blues Brothers, è partito per il lavoro, non poteva non fare colazione con pane, burro, rock and roll. Bravo Eric. Le cose importanti nella giornata bisogna mantenerle, anche se si passa la notte. Paolo da Genova si chiede, ma camminare sotto la neve è rock? Sembra di sì. Nella prima ora abbiamo anche scoperto, per voi che vi siete svegliati adesso, che la nostra sciura Carla, la sciura di riferimento qui a Milano, mi è cascata, ma guarda. Però poi quando si è resa conto che aveva azzeccato i numeri di ieri, già si è svoltata la giornata. Nel corso della seconda ora abbiamo un appuntamento con Marina da Genova. Ieri ha deciso di smettere di fumare. Ce l'avrà fatta oppure no? E soprattutto, continuerà? Scopritelo con noi! La casella di posta elettronica, per chi me lo chiede, ariel@radiorockfm.com. No, non la faccio sta battuta. Sì, anche per voi che siete interessati al calendario. E ricordo agli amici milanesi, questo sabato porterò con me all'Atomic Bar, qui vicino alla radio, tra l'altro un locale dove mi diverto sempre un botto a mettere i dischi. Ci sarà anche l'operaio del rock and roll, roba strana, insomma, se siete interessati al calendario oppure a me, passate a trovarmi. contenti oggi, eh? Eh sì, parecchio. Farmaci buoni stamattina? No, a dire il vero no. Esperimenti sull'accoppiamento. Cioè? Caro Frigo, è da ieri sera che trombo come un coniglio con la topolina della 34 che è un vero schianto. Marogna! Come puoi gioire di una cosa così terribile? Vi costringono a fare del sesso! Non c'è amore in quello che hai fatto! È un'esperienza vuota! Beh, guarda, caro Frigo, tra le esperienze vuote, io credo che sia una delle migliori. E poi, con le esperienze vuote che circolano, non è proprio per niente male. E poi lasciamelo dire, adesso che ci penso, meglio un'esperienza vuota che un'esperienza piena di... merda. Rogna! Sfiga. Meglio sfiga. Caro Frick è più amico suo che mio, sia ben chiaro. Ma per forza lei di cose, diciamo la verità, me l'avete affidato. Anzi, se posso essere più sincero, me l'avete appioppato. Fortuna è tornato dai monello. Suoi genitori e il nostro piccolo aia. Giovane metallaro di riferimento. Non lo nomini. Si chiama Francè, bentornato. Tu stai prendendo una brutta piega, Francè. Bruttissima. Dimmi. Non ci si può credere. Beh, almeno non ha fatto la pernacchia, esatto. Che è tipica di questo gioco. Senti, hai costruito, Francesco, sono Frica, hai costruito l'albero di Natale, l'abete di Natale. Cosa c'era? Sì, bello, era un sacco metal. Metal, si illuminava. Sì. Ah, sì, allora c'è stava dentro, no, c'è stava sopra. Dei bamboli voodoo e le palline erano fatte praticamente con le borchie. Le borchie, sì. Sì. E il 24 dicembre ti hanno dato fuoco. No, ma scusa, ma quella santa donna di tua madre. E mamma sotto, infatti. No. Era sotto e magari stava pure dormendo. No, era svenuta. Ecco, chissà perché. Perché aveva battuto la capoccia contro una delle palle dei borchi. Perché le avevi date le goccette? No, le goccette no, svenuta che le borchie. Di suo da sbattere con la capoccia. Chissà, l'unico albero metal di tutto il mondo, perché Francesco. Tra l'altro, la l'altra volta non ce l'ho fatto in tempo. Io ho detto tutti i regali. Ah, altri regali hai ricevuto? Sì, ce ne stanno altri. Ovvero? Allora ci stanno, sai che io ho la bici metal. Sì. E tu parli di questa bella bici, no? Ricordiamo che ha il campanello che suona Symphony of Destruction. Symphony of Destruction, metal! Sì. Esatto, sì. Ce lo ricordo. Allora, sta bici ovviamente servono le frange sul telino. Sì. No? Però la cosa bella è che le frange sono frange vere prese dai capelli degli emo cingalesi della scuola mia. No, ma no, ma cosa stai dicendo? Sono le frange degli emo, capito? Sì, no. Le frange di un bambino? Sì. No, no, no, no. Ma basta il culo, No, no, non si dicono queste parole, Francesco. Dai, metal! Metal, vabbè, ok. Con questa scusa del metal. Altri regali? Altri regali, ma uno zainetto di pelle. Sì. Uscita nera, un po', capito? La più nera. Con le borchie? Con le metal? Un po' metal? Sì, da Santo Tommaso. Come Santo Tommaso? Santo Tommaso. Ah, Santo Tommaso, sì. Con le borchie, naturalmente. Santo Tommaso è un'altra cosa. Sai che quando io prendo in mano mi scivola, no? Perché è di pelle lucida. E puzza, ma puzza tanto, no? Di pelle. A un certo punto la maestra pensava che avevo sgozzato un maiale in casa. No. E quindi sì, però io ogni tanto Beh, la maestra ha già capito come tinte sei fatto, forti, eh? Tinte sì, forti, sì, sì. Ma il regalo più bello, dai. Il regalo che trovo, guarda, una cosa Sì. È il disco dei Megadeth, edizione limitatissima. Sì. Con dentro bacchetta il batterista. Oi là là. Un plettro. Francesco, un plettro. Plettro del chitarrista. Sì. E una tonsilla del cantante. Come una tonsilla del cantante? È limitatissima, fa due copie. È due copie. Dentro nel coso, cioè, ci sta pure un duetto con Barbra Streisand. Ah, sì? Sì, sì, sì. Due ungole. L'hanno negata, mi hanno detto. L'hanno? L'hanno negata. Beh, immagino. Oh, raga, passano alla porta, mi sai il cantante di Megadeth che risuole la consiglia. Ridagliela, guarda che quello si incazza, sì, Francesca, stai attento. Sì. Ciao, ridagliela questa tonsilla, ridagliela. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Dove la trovate una colazione così? Dove? Led Zeppelin, Black Dog. Non col kazoo, quelli originali. Per gli amanti dei Led Zeppelin col kazoo, invece, attendete ancora qualche giorno. Vedrete, avremo pane per i vostri denti. Per gli amanti dei Beatles in italiano, anche, mi spiace per voi, ma torneremo a occuparci della questione. E abbiamo, mi sono fatto scappare qualcosa nella prima ora di diretta, c'è qualche novità anche sugli AC/DC con la bocca, sì, ma ne parleremo nel prosieguo del 2008, ve lo ricordo, l'anno della svolta, puntata 154. Amici toscani, io mi rivolgo in maniera specifica a voi. Ciao, sono Ariel, buona giornata. Riesco anche a parlare in italiano a volte. Mi capita di farcela. Amici toscani, amiche toscane, vi ricordo che sabato prossimo, non questo, siamo a Firenze per la consegna delle patenti da vero rocker. Vi ricordo che non è che le gettiamo così dal palco e voi le prendete, bisogna meritarsele, bisogna rispondere al test attitudinale di pane, burro e rock and roll. Se lo azzeccate, vi beccate la tessera, se no, uppa, come direbbero lì sulla costa. E tutto per dire che tra poco c'è la domanda del test attitudinale. Giorno dopo giorno, grazie al test attitudinale, andiamo a scoprire che la storia della musica rock è costellata da leggende metropolitane. Certo, certo, e costruiamo la nostra enciclopedia rock, la nostra particolare enciclopedia di pane e burro, rock and roll. Grazie al test attitudinale, prima o poi scopriremo anche le dozzine di leggende metropolitane che girano intorno al bacino di Roberto Fricantoni, ma non oggi. Non oggi. Perché oggi ci occupiamo invece di Pink Floyd. Esatto, esattamente, un classico dei Pink Floyd, ovvero The Dark Side of the Moon, uno degli album più venduti della storia del rock. Tutti voi lo conoscete sicuramente, ma forse non sapete che esiste, circola una leggenda metropolitana legata a Dark Side of the Moon. Sapete quale? Ipotesi A: ascoltando l'intero album al contrario e visionando contemporaneamente il film Il Mago Oz, Il Mago di Oz, si riscontra un'impressionante sincronia. Oppure ipotesi B: ascoltando The Dark Side of the Moon, la faccia oscura della luna, le pulsazioni del cuore aumentano e diminuiscono in base alla progressione dei brani. Alcuni esperimenti hanno accertato che il fenomeno si verifica anche se l'ascoltatore non sta prestando particolare attenzione alla musica diffusa in quel momento. Oppure ipotesi C: The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd contiene messaggi subliminali che indurrebbero addirittura al suicidio. Quali di queste tre leggende metropolitane è quella vera? Restate in contatto perché la soluzione ve la diamo tra poco, e cioè la risposta esatta a poco dopo. Risponde la segreteria telefonica del numero 0 2 2 2 0 9. Il cliente chiamato al momento non può rispondere. Se desidera lasciare un messaggio, parli dopo il segnale acustico. Buongiorno, sono Ariel di Rock FM. Volevo chiederle se gentilmente può ascoltare la radio dalle 7 alle 9 del mattino sui 100,7. Ci sono io, ma c'è anche Roberto Fricantoni. Roberto Fricantoni degli Schiantos, non so se lo conosce, ad ogni modo vale la pena di ascoltare la trasmissione Pane, Burro e Rock and Roll. Ci dia una mano ad aumentare gli ascolti, Rock FM. Si sintonizzi, 100,7, arrivederci. Rock FM, grazie.